ti prende per il C e manco te ne accorgi. Mike, io di te penso tutto il bene possibile. Ti voglio tanto bene. La tra, tra. E poi mi fa la domanda. Io ho 50 anni di carriera, quindi questi 50 anni fin da quando è nata la televisione, e allora lavoravo anche alla radio, io ho avuto la possibilità di collaborare con tutti i grandi nomi del mondo dello spettacolo, tutti, tutti indistintamente, tutti bravi nel loro genere, non c'è dubbio, però uno come Fiorello non c'è mai stato. Sa fare tutto e tutto lo fa molto, molto bene. Tutte le volte che viene a Milano, io lo vado a vedere al Palazzo dello Sport quando fa il suo spettacolo, lo vedo partire in quarta, pensate che lui non si interrompe, fa il suo show dall'inizio alla fine, 2 ore e un quarto, alla fine da buttare via. Anche questa è una grande dimostrazione di grande preparazione. Quella che vi proponiamo adesso è una sorta di intervista virtuale, reale, inedita e originale. Un dietro le quinte della vita di Rosario Fiorello. Rosario Tindaro Fiorello. Fiorello. Qual è il suo conduttore preferito rigorosamente al di sotto dei 55 anni? Conduttore. Beh, Gerry Scotti devo dire che è quello che più riesce a condurre, se, cioè con una vena di ironia non indifferenza, e poi qualsiasi tipo di spettacolo. Fiore, mi fa un prestito? No, oh, scherzavo, no. Dai, questo è banale. Pippo Baudo. Pippo Baudo. Mike Buongiorno. Non mi dire di scegliere. Daniele Luttazzi e Fabio Fazio. Devi buttarne giù una. Una devo buttare giù. Che fa? Butti dalla torre Pippo Baudo, quello risale, risale e mi fa nero. Mike Buongiorno non ci pensiamo neanche, quindi lui sapeva già che bastardo. Baldini, certo, lo sapeva lui, mi metteva in difficoltà. C'è qualcosa che musicalmente per te è inarrivabile e che pensi che non sarai mai capace di fare? L'opera. Credi in Dio, Fiorello? Che domanda a bruciapelo. Sì, credo in Dio, ma ho avuto più volte dubbi. E quando uno ha dubbi in queste cose non va bene, vuol dire che non hai fede. E quindi, però io voglio avere fede, voglio credere. Se la ride pure, mi ha fatto la domandina. Cos'è la cosa? Ma sempre lui, è sempre lui. Cos'è la cosa che veramente ti renderebbe più felice in assoluto? Ma adesso sembrerò banale, ma quello che ho in questo momento va più che bene, insomma. Una moglie bella, una famiglia stupenda, il lavoro va bene, questo mi rende felice, però c'ho l'ansia.